Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Martedì 6 aprile, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori tra la città e il carcere, bentornati a Liberi Dentro. Io sono sempre Caterina e qui con me ci sono Ignazio De Francesco da Montesone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Caterina e buongiorno a tutti quelli che ci sentono dal carcere e dalla città. E buongiorno a Paolo Billi per noi per tutta questa settimana. Buongiorno a voi. Allora, le notizie di oggi ci portano a Verona, quindi siamo in Veneto, dove i versi della commedia di Dante dentro il carcere di Montorio. Leggo da Verona Oggi, quindi è una notizia di cultura e società, diciamo, perché i versi di Dante risuonano da 3 anni dentro al carcere di Montorio a Verona. La Compagnia del Teatro del Montorio ha dato infatti via già nel 2018 al progetto Dante in carcere, un progetto della direzione del carcere di Verona, realizzato dalla compagnia teatrale Le Falie, col sostegno della Fondazione di San Zeno, e sono state 3 tappe in 3 anni, come altrettante sono le cantiche della Divina Commedia, per giungere poi quest'anno, 2021, l'anno culmine, a omaggiare per l'appunto i 700 anni dalla morte del poeta. E quindi in occasione, lo scorso 25 marzo del Dante Dì, i partecipanti al laboratorio di teatro alla Casa Circondariale di Verona hanno registrato il videomessaggio Libertà va cercando e poi lanceranno sempre in via streaming lo spettacolo sul Purgatorio. E c'è una cosa importante che dice Alessandro Anderlone, il direttore artistico del progetto, che in carcere le parole di Dante si incarnano nei corpi e nelle voci delle persone detenute. Questo perché la vicenda umana di Dante è molto più vicina a queste persone, proprio perché per la condanna ingiusta, per esempio, pensiamo alla sua vita, al suo esilio, al fatto di vagare in solitudine di città in città e di mangiare pane salato, no? E quindi in questo anniversario, quest'anno, lui sente che Dante è nelle carceri molto più che sui palcoscenici dei teatri e nelle sale delle accademie, è nelle case, nelle scuole, è tra le persone. È una cosa molto bella. E adesso do la parola a te, Ignazio, invece, sulle notizie internazionali. Allora, abbiamo oggi è un articolo che viene da Orient Le Jour, il giornale in lingua francese del Libano, che però dà una notizia che riguarda la Turchia, una cosa caduta nelle scorse settimane, cioè c'è stato l'annuncio da parte del governo turco, del premier Erdogan, il premier turco, che il paese si ritira dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la lotta contro le violenze di genere, la violenza domestica sulle donne. Una convenzione che lui stesso aveva firmato nel 2011. E da allora è iniziata una certa pressione nel paese per abbandonare questa convenzione. Adesso noi non entriamo nei particolari, ci sono dei motivi, sicuramente c'è un problema del mondo islamico su queste cose, la sensazione che la donna si sottragga a quelli che sono considerati poi anche i doveri religiosi ai quali lei aderisce in quanto donna musulmana credente, però il problema è grosso perché la violenza di genere dilaga, non si può buttare la croce addosso a nessuno, non possiamo dire che di là dal mare picchiano le donne, mentre invece qua in Italia va tutto bene, sappiamo che qua in Italia la violenza di genere è molto presente, quindi è trasversale all'esperienza umana. La cosa interessante è che Orient Le Jour riferisce di queste manifestazioni che ci sono state in Turchia per chiedere a gran voce al presidente Erdogan di rinunciare a questo atto, di rientrare in questa convenzione come atto di civiltà. E la cosa che più colpisce è che queste manifestazioni erano molto miste, c'erano uomini e donne, migliaia di persone, non milioni, ma migliaia di persone, in cui donne e uomini, ragazzi e ragazze dicevano: guardate, no, bisogna andare, questa è una piaga che disonora qualsiasi civiltà, quindi disonora l'Islam, disonora il cristianesimo, disonora il buddismo, disonora il confucianesimo, ecco, ogni luogo dove si fa violenza sulla donna è un luogo in perdita. E a conclusione allora di questo patto di civiltà rilanciato dalla Turchia, che musica araba associamo? Continuiamo con Lena Shamamian, e quando si sente un Mian è sempre un armeno, siamo tranquilli, quindi Lema Shamamian, quindi una cantante armena siriana, che nel 2006 vinse un importantissimo premio ad Amman, al Centro Culturale del Principe Hussein, che ci canta oggi, chiedo a Matteo Parisini di mandare in onda Bali Mak, cioè io lo traduco così, ti penso. Bali Mak, Bali Bali Bali Bali, Abul Jibin, Ali Ali Ali Ali, Wahyat Sawad, Ainik Ya Habibi, Ghirak Ma Yahla Ali, Ghirak Ma Yahla Ali. Eccoci sempre su Liberi Dentro, con le note sulle note musicali di Ti Penso di Lena Shamayan. Con te, Ignazio, siamo sempre con la rubrica Galateo Arabo, che ci accompagna fin dall'inizio del nostro programma. E se ieri parlavamo dell'importanza del tacere, del sorridere, oggi parliamo dell'importanza di una buona parola quando si dialoga insieme, no? Esatto. C'è questo detto molto bello: al kalimatu at-tayyibatu sadaqa. Cioè la buona parola è equivale a un'elemosina. Non hai soldi, per esempio, non c'è niente sul conto, ti trovi in carcere, mettiamo, non puoi dar niente a nessuno, anche se sappiamo che danno, perché hanno fatto, per esempio, delle raccolte importanti in carcere, proprio i detenuti hanno lanciato, ma sei in una situazione di indigenza totale, ma hai sempre la possibilità sulla lingua di una buona parola. E c'è questo detto famoso, anche questo un hadith, un detto della tradizione profetica, che dice: ittakun nara walau bishikati tamaraten, faman lam yajed shikata tamraten fabin kalimate tayyibaten. Allora dice: guardatevi dal fuoco, cioè dall'inferno, da una punizione eterna, anche fosse solo con l'elemosina di un pezzetto di dattero. Ma, e uno, se non ha neanche il pezzetto di dattero da dare in elemosina, dica una buona parola. Bello questo riferimento al dattero, tra l'altro fra un po' che comincerà Ramadan, quindi grazie per questo spunto. E do a te la parola, Paolo Billi, sempre con noi, perché a partire da una domanda in realtà, perché quando io con Ignazio anche andavo al carcere a fare i laboratori, mi sono sempre trovata davanti a una platea di uomini, perché ero alla sezione maschile, giovani padri soprattutto, e quindi sappiamo che il tema della paternità all'interno del carcere è molto sofferto, è un punto nevralgico proprio tra i tanti. E quindi tra i tuoi lavori più recenti, proprio lo scorso anno, c'è Caro Padre, che affronta il rapporto tra padre e figlio maschio, no? Sì, questo è stato il tema padri e figli, il tema degli ultimi 3 anni di lavoro, sia all'Istituto Penale Minorile, sia all'Istituto di Pontremoli, dove lavoro, che a Firenze, e anche alla Dozza, dove lavoro però alla sezione femminile. Allora, padri e figli. Con i ragazzi sono partito lavorando da alcune lettere famose di figli che hanno scritto ai loro padri. Quella più famosa è Kafka, ma ci sono Leopardi, Marx, Mozart, ci sono tutta una serie di personaggi che scrivono ai loro padri manifestando grandi disagi spesso, pur essendo figli che poi diventano molto, molto noti e si affermano in maniera indiscutibile. E ricordando Leopardi, il padre nei confronti del figlio disconosce qualsiasi qualità. Quindi partendo da queste lettere si è fatto tutto un lavoro di scrittura con i ragazzi cercando di andare a così, indagare, ma non in maniera autobiografica, ma sempre attraverso la costruzione di storie, quale poteva essere questo rapporto. E ci sono state due cose fondamentali in tutto questo. Da una parte uno spettacolo era titolato Eredi eretici, che sembra un concetto, come dire, difficile, ma in realtà si è sviluppato in una direzione molto interessante, perché figli che reclamano la presenza del padre, il padre è assente. E se il padre è assente non lascia in eredità nulla e quindi il figlio non può neppure essere eretico nei confronti del padre, non può andare contro il padre perché il padre in realtà è evanescente. Questo è stato un lavoro molto, molto forte. Il successivo è Le orme dei figli, andando contro quel luogo comune che i figli seguono le orme dei padri, abbiamo messo al centro invece le tracce che lasciano i figli. E spesso però è venuto fuori che non vogliono lasciare tracce, oppure camminano sulle tracce lasciate da altri. Quindi andando contro, come dire, a un immaginario di luoghi comuni che come dire, spesso ci accompagna. Caro padre, lo spettacolo che citavi, fatto a Firenze, era una sorta di silloge, metteva insieme scritture diverse realizzate al Meucci di Firenze, in cui il tratto fondamentale era la solitudine di queste creature che, pur vivendo in contesti in quel momento estremamente dolorosi e duri, però hanno in sé dei grandi rimpianti. Tutto molto, molto evocativo. Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te e tu non capirai e mi chiederai perché. E mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve arrendersi mai. Tu mi dirai che un uomo deve sapere proteggersi. Bentornati su Liberi Dentro, oggi siamo con la dottoressa Samia Dallali, dottoressa in traduzione, interpretariato e mediazione interculturale, e sei anche mediatrice interculturale per la parte arabofona al carcere della Dozza di Bologna. Intanto benvenuta su Liberi Dentro. Grazie. Oggi con te, Samia, parliamo di cucina, perché recentemente è stato riconosciuto come patrimonio dell'UNESCO il couscous. E quindi, dopo una richiesta da parte della Tunisia, la Mauritania, il Marocco e l'Algeria. E quindi volevo chiederti un po' di raccontarci la storia, le origini di questo piatto che ormai è un vero e proprio patrimonio interculturale. Sì, in effetti il couscous oggi è riconosciuto come patrimonio UNESCO, come patrimonio UNESCO mondiale, e quindi questo couscous che è un piatto che riunisce proprio quattro paesi che hanno fatto questa candidatura all'UNESCO, che sono la Tunisia, la Mauritania, il Marocco e l'Algeria. Questi quattro paesi si sono uniti per far riconoscere questo piatto molto ricco come piatto che unisce le loro conoscenze, saper fare, mangiare, ma anche il fatto di saper anche stare insieme, di condividere e anche di tradizioni. Quindi questo piatto riassume un po' tutto un patrimonio di quattro e più paesi nel mondo africano e non solo, che unisce proprio questo saper fare soprattutto. Ma le origini sono molto antiche però di questo piatto. Le origini non si sa esattamente a quanto esattamente risale il couscous, ma le origini sono molto antiche, sono origini subsahariane, berbere, che risalgono tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo. Ci sono tracce di lettere, di libri, di corrispondenze sul couscous che è arrivato in Europa nel 1600. Addirittura, sì. Quindi, ed è per quello che lo troviamo anche in Sicilia, per esempio, come piatto. Esatto, quindi è partito dal Sub-Sahara, quindi dal Mali, visto che comunque è un piatto che resiste, che dura, che resiste al caldo, che resiste comunque si mangia sia freddo che caldo, resiste, quindi parte e nasce dal deserto per arrivare all'Africa mediterranea, per dopo arrivare anche alla riva nord del Mediterraneo, quindi è arrivato. Attraversato il deserto per arrivare alla Tunisia, ai paesi del Maghreb, per poi arrivare all'Europa. Quindi è arrivato poi alla Sicilia. Mi chiedevo, siccome tu sei mediatrice culturale presso il carcere, sì. Quando ti accorgi, cioè ti sei mai accorta come la cucina è in grado, allora anche attraverso il couscous, di creare scambio interculturale e relazioni anche dentro? Sì, io essendo mediatrice culturale, prima di arrivare in Europa, in Italia, di preciso non mi sono resa conto proprio del valore del couscous. Per me era una cosa naturale, era un vissuto naturale, una tradizione praticata quasi tutti i giorni, tutte le settimane. Poi quando sono arrivata qui in Italia ho notato che il couscous ha un valore aggiunto, è un valore aggiunto, è un patrimonio che nasce nei paesi di origine, ma che dopo un piatto che viaggia, che si trasforma, che si sviluppa, che si porta in valigia, si portano gli ingredienti del couscous in valigia, è una carta sempre vincente, è un mezzo di dialogo culturale, un mezzo attraverso il quale si potrebbe far conoscere la propria cultura, far conoscere i sapori diversi, i modi diversi di cucinare, i valori proprio del stare insieme, di condividere un piatto che riunisce degli ingredienti molto ricchi, ma anche che sono ingredienti che sono anche che si trovano anche in Europa, quindi il semolino si trova in Europa, la verdura si trova in Europa, la couscousiera che è il pentolone grande che si usa per mangiare questo couscous per cucinarlo si trova anche in Europa, quindi non è stato difficile proprio mangiarlo qui e farlo anche assaggiare agli altri. E a proposito di questa cosa, allora, molto bella che hai detto di questo piatto viaggiante, anche la musica è un mezzo per viaggiare, allora io chiedo sempre ai miei ospiti cosa lanciamo. Sì. Un brano musicale. Sì, il piano musicale, quindi siccome anche il couscous è un piatto tradizionale che è anche legato molto al folklore, quindi come pausa musicale ho scelto un brano proprio musicale tunisino che traccia un po' il deserto, ma anche la città, le tradizioni, la bellezza della donna del Mediterraneo, quindi è tutto, riassume un po' le sfumature un po' più dell'ambiente del couscous, ecco, quindi è un viaggio attraverso il quale uno potrebbe ricordarsi anche delle origini, ma anche viaggiare un paese dove non è mai stato. E quindi lanciamo Chanson Tunisienne Folklore. عليتيني هاي سينا هاي سينا علاش نموت نعاني Eccoci sulle note di questo bellissimo brano musicale e volevo chiederti, Samia, allora abbiamo presentato un po' le origini di questo piatto che unisce, questo piatto che viaggia, questo piatto antico e allora ti chiedo se ci puoi dare una ricetta, in breve, in 3 minuti, per oggi a pranzo. Ecco, allora, la ricetta ci sono, allora, faccio un breve introduzione sulla ricetta. E solo in Tunisia esistono più di 100 ricette di couscous, di cui anche una ricetta di couscous dolce, che è poco conosciuto, quindi c'è anche il couscous dolce mangiato come dessert o come anche colazione prima dell'inizio del digiuno a Ramadan, che si chiama il masfouf. Allora, oggi io proporrei una ricetta molto semplice, economica e anche leggera di couscous solo con verdure. Vai. Quindi è un piatto per 4 persone. Ci serve quindi una couscousiera, un mestolo di legno, una grande ciotola e un canovaccio, ecco. Quindi intanto quindi ci servono come ingredienti 500 g di couscous, quindi il semolino proprio secco, non precotto, che andremo subito a bagnare con acqua tiepida e un po' di olio d'oliva e un po' di sale. Prendiamo tutto, mescoliamo tutto con le mani, come per fare una sfogliatura di pasta brisè, ecco, fino a tutto l'assorbimento del semolino. Poi dopo copriamo tutto il semolino e lo lasciamo riposare un attimo, per 20 minuti almeno. Nel frattempo, quindi prendiamo tutta la verdura che ci serve. Possiamo anche aprire il frigo e prendiamo la verdura che abbiamo a casa. Quindi abbiamo il passato, come tutti gli italiani hanno il passato di pomodoro, hanno la cipolla, hanno le carote, hanno magari le patate, e volendo anche peperoni secchi, peperoncini, un po' di sale e pepe quanto basta, e poi anche ci vuole anche un po' di carote, vi ho detto già le carote, le zucchine, ceci già cotti, per condire. Quindi prendiamo il pentolone, quindi facciamo 2 metodi. Io ho scritto che comunque facciamo il soffritto, si può fare il soffritto con la cipolla, poi dopo si aggiunge il pomodoro e un po' di harissa, se vogliamo il couscous piccante, perché il couscous tunisino va mangiato piccante, altrimenti passiamo e facciamo senza harissa. Quindi dopo il soffritto aggiungiamo tutta la verdura che ho citato, tagliata a pezzi medi, cominciando con la verdura che si cuoce prima, quindi le carote e i peperoni. E si aggiunge dopo anche il pomodoro, il passato di pomodoro. E dopo si aggiungono man mano che bolle tutto il pentolone, quindi bolle tutta la verdura, si crea una sorta di praticamente di brodo col pomodoro, quindi brodo con tutta la verdura, e si quindi cuoce per mezz'ora. È il condimento, quindi praticamente esatto, in una mezz'ora si riesce a fare tutto per arrivare a pranzo. Sì, una mezz'oretta, sì. Perfetto. E un trucco che posso fare, la verdura già potrebbe essere anche tagliata la sera prima, così okay. Si risparmia anche più tempo. E così si dedica più tempo alla cottura del semolino, perché il semolino va cotto a vapore sopra, sempre la parte sopra, almeno per 2-3 volte. Certo. Grazie Samia. E ora è il momento di chiudere con un altro brano musicale. Lanciamo adesso un'altra canzone tunisina, sempre così, che va benissimo con questo ambiente del couscous, della festa, dell'amore, della anche della come dire, del stare insieme, sì, della famiglia, e anche un po' anche una musica che ci porta a immaginare un po' i quartieri tradizionali della Tunisia, che è la Medina. Quindi lanciamo la canzone di Lotfi Bouchnek, si chiama Kifesh Bahter Hielek. Kifesh Bahter Hielek vuol dire quando ho visto la tua ombra. Questo grazie. Cantante canta un po' della sua amorosa, quindi cioè, proprio una canzone d'amore, ecco. Quindi, grazie mille, lo ascoltiamo mentre cuciniamo. Grazie di cuore e ci vediamo e la prossima volta. Ciao. Ciao. E rieccoci, bentornati dopo questa ricetta nuovamente che vi abbiamo lanciato a cura di Samia, mediatrice culturale del carcere di Bologna. Raccontateci anche qui se vi è piaciuto, quello che stiamo facendo, anche le scelte musicali che stiamo facendo, anche io in particolare, quindi dateci dei suggerimenti. L'indirizzo postale è sempre Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2, 40136 Bologna, oppure la mail liberidentro.eduradio@gmail.com. Il vostro contributo è importante, ve lo ricordo sempre, come anche importante il laboratorio di oggi pomeriggio con il Poggeschi per il carcere, alle ore 17, ore canale 636 di Teletricolore. Grazie a Matteo Parisini, il nostro tecnico, e a Paolo Billi, il nostro ospite, per tutta la settimana. Buona giornata e ci vediamo domani.